Sei proprio tu, John Wayne? Oh, devi starmi a sentire! È quando il padrone entra alla fine della giornata e viene a vedere come hai lavorato, tu non lo guarderai negli occhi! Guarderai per terra! Perché avrai una gran voglia di saltarti addosso, sbatterlo per terra e farlo urlare, e farlo supplicare e piangere! E così guarderai per terra, perché avrai paura di farlo! Questa è la vita che ti aspetta, stronzo! Lui si guarderà intorno per controllare quello che hai fatto e dirà, oh, c'è ancora una macchiolina laggiù! Cristo, è possibile che non l'hai vista! Prima di andare via, quella me la levi! E priverai la rabbia che ti sale al cervello, e pulirai quella macchina, ecco! Pulirai quella macchia bene, che non diventerai bello lucido. Il venerdì ritirerai la tua busta paga. Se tu ci riuscissi, potresti diventare presidente di una banca, quello che vuoi!